vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 7 novembre, il sole in regione sorto alle 6.56 e tramonterà alle 16.45. La luna è crescente, siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino. C'è una recentissima legge del Friuli Venezia Giulia che introduce nella nostra regione gli agrinido, ovvero la possibilità di ampliare il raggio d'azione dell'agricoltura sociale con accoglienza nelle aziende dei più piccoli che in un prossimo futuro potrebbero diventare anche agrinonni. E il tema del servizio di apertura, per passare poi alla rubrica del bio dove si parla di alberi e di nuove sensibilità che però rischiano di far perdere di vista le vere cause del cambiamento climatico. Peri antichi da Sidro in Valcanale Canal del Ferro è l'argomento di una brillante tesi di laurea all'Università di Udine. Ne parliamo con l'autrice, per passare dopo al dilemma dell'utilizzo o meno dell'ossigeno nel mosto in cantina. La rubrica dell'orto affronta il delicato tema dei ristagni idrici, mentre in quella della gastronomia, prima di tre puntate, è dedicata alla vera storia del tiramisù. Andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo con una breve nota di climatologia locale, il proverbio friulano della settimana, chiudono la puntata. Oggi Vita nei Campi si occupa di agricoltura sociale, in particolare di una recente legge regionale in via di promulgazione che si occupa in particolare di agrinido. Di cosa si tratta? Ne parliamo con Gianna Di Danieli, consulente legislativo che ha partecipato alla formulazione di questa legge per conto di Coldiretti. Il tema dell'agricoltura sociale è un tema che tenta di valorizzare l'ambiente rurale, l'ambiente agricolo e la multifunzionalità delle imprese agricole in una prospettiva di fornitura di servizi integrati in materia sanitaria, in materia educativa, assistenziale, a favore appunto delle famiglie e del territorio, nell'idea che il fatto stesso di operare in un ambiente rurale a contatto con la natura e con i valori quindi veri che riguardano l'individuo e il suo benessere, ci sia appunto un valore aggiunto in varie attività che hanno a che fare con la cura della persona, con lo sviluppo anche del rispetto per l'ambiente che ci circonda. Faremo fare l'asilo ai nostri figli in fattoria dunque? Ecco, questo è senz'altro l'obiettivo del presidente Budai, che è il presidente della seconda commissione consiliare, che è stato il papà, possiamo anche dire, di questa ormai legge in fase di promulgazione, perché nell'ambito delle varie possibili attività che vanno appunto sotto il nome di agricoltura sociale, ha fortemente voluto sviluppare questo tema, servizi integrati per l'infanzia in ambiente rurale, e con questo disegno di legge che si inserisce nella legge regionale già esistente, che è attuativa della legge statale e poi appunto di queste esigenze che sono appunto ben rappresentate, in particolare a favore del tema degli agrinido e degli agriasilo, cioè di quei servizi educativi per i minori fino a 3 anni e poi per i bambini dai 3 ai 6 anni. Naturalmente la battuta è confacente, nel senso che sarebbe bello poter ampliare a dismisura questo tipo di servizi, ma in realtà sia la legge statale sia la legge regionale naturalmente prevedono anche dei requisiti e diciamo dei controlli su chi opera a favore dei bambini in questo settore. Oltre ad essere agricoltori bisognerà diventare anche maestri. Ecco, il punto è proprio questo: innanzitutto bisogna essere agricoltori, c'è il tema della connessione proprio con l'attività agricola che è fondamentale, non è che chiunque può diciamo aprire agrinido, ma chi innanzitutto è imprenditore agricolo o anche una cooperativa che opera nel settore in modo prioritario. E già si parla di agrinonni. E poi certamente in prospettiva c'è anche il tema, a proposito di fragili o comunque di soggetti che potrebbero ritraerne un grande beneficio, che è il co-housing e social housing, queste comunità residenziali o alloggi sociali a favore degli anziani. Coldiretti ha appena presentato il primo rapporto sull'agricoltura sociale 2020, nella quale viene dato anche evidenza di come questo tipo di argomenti ed iniziative si sviluppi ormai su tutta Italia, quindi la nostra regione è senz'altro tra le prime e le più interessate a svilupparlo. Dopo la conferenza sul clima di Glasgow si fa un gran parlare di alberi da piantare un po' ovunque. Buona cosa, ma come ci dice Cristina Micheloni nella rubrica del bio, questo potrebbe farci dimenticare la vera causa per cui questi alberi invece continuano ad essere tagliati. Dopo il G20 e la COP26 siamo tutti ancora più convinti ed ecologicamente schierati. La parola d'ordine è sostenibilità. È già da un po' che riecheggia, ma ora le abbiamo messe tutte in fila le problematiche e trovato la soluzione giusta, piantare alberi. E chi potrebbe dichiararsi contrario? Peccato però che già nel 2014, quella volta era New York e i paesi erano soltanto 40, si fissò l'obiettivo deforestazione zero entro il 2030, per poi lasciare che 5 milioni di ettari di foresta andassero perduti ogni anno fra il 2010 e il 2020, 5 milioni di ettari l'anno. E allora la soluzione che farà ritornare tutto sostenibile, visto anche l'incalzare del cambiamento climatico, è mettere giù comunque e ovunque ancora alberi? È evidente che è molto più appealing proporre di piantare alberi piuttosto che mettere in discussione la vera causa per cui questi alberi invece continuano a essere tagliati. Il nostro sistema agroalimentare è il vero problema, anche se gli diamo una mano di verde e ci inventiamo aggettivi che piacciono ma nulla significano, come sostenibile o rigenerativo. È un problema a cominciare dall'allevamento, che è quello che maggiormente taglia alberi per lasciare spazio alla soia e ai bovini, ma continua a essere un problema anche nell'uso di energia, acqua, suolo, risorse, nella produzione vegetale, nella trasformazione o ipertrasformazione, visto che siamo tutti cuochi da TV ma non da fornello, e nella logistica, che ci racconta la storia del chilometro zero ma continua a far attraversare il mare e far girare in mezzo mondo a mangimi, farine e molto altro. Quindi va bene, piantiamo ancora alberi, magari consideriamo anche che alberi, dove e in che modo, ma questo non lava la coscienza né ai cittadini consumatori e men che meno ai decisori politici, che hanno ora a disposizione delle somme ingentissime tra PNRR, nuova PAC e molti finanziamenti privati, con cui si potrebbe davvero ristrutturare il sistema agroalimentare in modo ragionevole, capace di futuro e in grado di affrontare il cambiamento climatico. La congiuntura è ulteriormente propizia visto il grado di sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Invece i due insulsi aggettivi di prima, insulsi perché volontariamente privi di significato, sostenibile e rigenerativo, sono e saranno le chiavi per allocare le ingenti risorse a chi continua a fare l'agricoltura e l'allevamento di sempre, con gli usuali impatti negativi sull'ambiente. Insomma, una mano di verde e continuiamo tutto come prima, ma sprecando, pardon, investendo anche tutte le ingenti risorse che mai prima d'ora e probabilmente nemmeno dopo sono disponibili. Alla faccia dell'albero, del macaco che ci vive sopra e di tutte le scimmie antropomorfe che, consapevoli o meno, continuano a segare il ramo su cui stanno sedute. Pero da Sidro in Val Canale e in Canal del Ferro è il titolo della tesi di cui ci occupiamo oggi con la sua autrice Noemi Filippini. Partiamo innanzitutto dai peri, qual è la zona, qual è l'areale scelto e poi arriveremo al Sidro. Pero da Sidro in Val Canale e in Canal del Ferro è il titolo della tesi di cui ci occupiamo oggi con la sua autrice Noemi Filippini. Partiamo innanzitutto dai peri, qual è la zona, qual è l'areale scelto e poi arriveremo al Sidro. Questi peri si possono trovare appunto nella zona della Val Canale, Canale del Ferro, ma anche nelle zone limitrofe dell'Austria e la Slovenia, e sono stati individuati in due ecotipi, per cui due varietà locali strettamente adattate al territorio dove si trovano, che sono la pera Klotzen e la pera Mosbirne. Peri antichi? Peri molto antichi, infatti gli individui presenti sul territorio si pensa che abbiano un'età stimata quasi nella loro totalità sui 100-150 anni. Sono degli individui dal portamento molto elevato, degli alberi davvero grandi, maestosi, ormai in una fase senescente della loro vita, che in passato producevano queste pere utilizzate per realizzare vari prodotti come pane di pere secche, ravioli di pere, chiamati appunto in dialetto Klotzen, Knödel, oppure per la produzione di sidro di pera. Sono peri in via di estinzione oppure possiamo stare tranquilli? Sono peri che andrebbero curati ma anche riprodotti, nel senso sarebbe ottimale riuscire a realizzare dei nuovi impianti per permettere appunto a questo materiale genetico di sopravvivere nel tempo, perché sono alberi che hanno fatto parte delle tradizioni della cultura di questo territorio ma fanno parte proprio anche del paesaggio rurale tipico di queste zone. Di questi peri si è interessato anche Slow Food, c'è una specie di tutela per loro addirittura una tutela transfrontaliera. Si sta costituendo infatti il prestigio Slow Food, che è un prestigio transfrontaliero che unirà i produttori sia della vicina Valcanale, Canal del Ferro e Varesia, ma anche della vicina Austria e Carinzia, appunto. Sarà il primo prestigio transfrontaliero per tutelare queste pere dell'Alpe Adria. Per averne bisogna andare a rubarle oppure si trovano da qualche parte in vendita? Al momento si trovano alla base degli alberi, perché spesso non vengono neanche più raccolte, però si spera in un futuro di poter dare vita di nuovo a queste pere mettendole anche sul mercato locale, magari unendole alla ristorazione del luogo. Una qualità sopra tutte, basta una. Penso che siano delle pere piccole e che davvero con una attenta essiccazione possono riservare un sapore sorprendente, come un fico secco, una dolcezza che una persona non si aspetterebbe da delle pere così rustiche. Ossigeno sì, ossigeno no, è il gran dilemma del suo controllo nel mosto. Cerca di dirimere la questione il professor Roberto Zironi nella rubrica del vino. Louis Pasteur, nel suo libro Etude sur le vin, afferma che è l'ossigeno che fa il vino e l'ossigeno che lo distrugge. Nonostante questa illustre affermazione, ancora oggi molti dei tecnici operanti nel settore sono convinti che l'ossigeno abbia, nel caso dell'enologia, soltanto un'azione distruttiva. L'ossigeno che si solubilizza nel corso delle operazioni di produzione del mosto viene consumato per via chimica, con un'azione catalizzatrice operata da specifici enzimi ossidatici o utilizzato dai microrganismi per il loro metabolismo. L'impatto dei fenomeni ossidativi nelle fasi prefermentative è determinante soprattutto nella vinificazione in bianco. Quando la buccia si rompe, i succhi escono e la componente polifenolica lipidica dei tessuti può essere ossidata per la presenza dell'ossigeno e per la presenza di specifici enzimi. La presenza di antiossidanti naturali, quale il glutatione o l'anidro solforoso eventualmente aggiunta, possono interrompere la catena ossidativa. Se nella prima metà del XX secolo l'anidro solforoso è stata considerata l'unica sostanza antiossidante utile per gestire i fenomeni ossidativi, è nella seconda metà di questo secolo che compaiono due proposte alternative. La prima è la tecnica di iperossigenazione, che consiste nel somministrare ossigeno in quantità tale da ossidare tutto il substrato ossidabile, e i composti bruni prodotti vengono poi separati successivamente per il riempimento o assorbiti dai lieviti. Le critiche iniziali ad una presunta perdita di componente aromatica varietale sono state poi notevolmente ridimensionate e oggi sta tornando di notevole successo in quanto essere tecnica sostenibile. La tecnica dell'iperriduzione è di alcuni anni più recente e si basa su di un principio diametralmente opposto: proteggere in tutte le fasi della vinificazione il mosto prima e il vino poi, utilizzando dei gas inerti o delle sostanze antiossidanti esogene, quali la solforosa stessa o altre sostanze più moderne. Ottenere questo risultato non è facile, perché l'ossigeno ci circonda e quindi è molto difficile proteggere continuamente il sistema, e quindi molto spesso chi applica questa tecnica di fatto l'applica soltanto parzialmente. Le acquisizioni più recenti che cosa ci dicono? Che probabilmente la strada corretta è una giusta via di mezzo, cioè l'applicazione di ossigeno in fase prefermentativa in quantità mirate alla composizione del mosto, quindi ad applicare i principi di un'enologia di precisione. Nell'orto uno dei nemici più insidiosi è quello del ristagno idrico. Come accorgersene e che fare? È il tema che affronta oggi Sara Bosco nella rubrica dell'orto. Il ristagno idrico è una situazione che si verifica spesso nei nostri orti ed è causato dalla presenza di un certo quantitativo d'acqua sul suolo, che risulta essere maggiore di quello che il suolo stesso è in grado di contenere. Può manifestarsi sia sullo strato superficiale che in quelli sottostanti. Può essere originato da diversi fenomeni, i più comuni piogge o irrigazioni troppo intense, ma anche vicinanza a laghi, fiumi e strati impermeabili nel suolo. Questa situazione che si viene a creare provoca diversi danni al suolo. Infatti l'acqua ha una forza maggiore dell'aria e tutti i pori nel terreno, che contengono generalmente aria nelle situazioni normali, vengono saturati d'acqua, e questo provoca una riduzione dell'aerazione nel suolo stesso. Questa mancanza d'aria porta allo sviluppo di batteri anaerobici e alla trasformazione di molti elementi chimici del terreno che diventano poco favorevoli per le colture. Queste problematiche si ripercuotono perciò anche sulle piante coltivate. Infatti, con la mancanza di aerazione avremo un minor sviluppo delle radici, un minor assorbimento anche degli stessi elementi nutritivi, con perdita di concentrazione degli stessi e una minor resistenza ai parassiti, come ad esempio i funghi. Si può arrivare fino a un rallentamento, se non al blocco della pianta. Ci sono alcune piante che temono fortemente i risagni idrici per tutta questa serie di motivazioni che si vengono a creare e perciò è molto importante salvaguardare tutte le acque in eccesso in modo da sfruttare al massimo le potenzialità del nostro terreno. Per contrastare il risagno idrico si possono creare dei canali di scolo delle acque in eccesso che può essere raggiunto anche andando a coltivare le piante su delle prode rialzate di una decina di centimetri dal piano di lavoro. Una considerazione importante è che sicuramente il tipo di terreno incide molto e spesso il risagno idrico si presenta in terreni per lo più argillosi. In questi casi bisogna lavorare il terreno a diverse altezze in modo da non creare una suola di lavorazione che si tramuta poi in uno strato impermeabile. Negli ultimi periodi purtroppo le piogge si manifestano in tempi concentrati e con elevati quantitativi d'acqua e ciò non facilita la coltivazione. Ma stando attenti alle tipologie, alle tempistiche delle lavorazioni e movimentazioni del terreno si possono attenuare i danni. Prima puntata oggi con Roberto Zottar sulla vera storia del tiramisù, argomento che da anni appassiona non solo i golosi. Abbiamo qui parlato di carbonara come piatto di innovazione, ma c'è un dolce tradizionale ancora più recente. Parlo del tiramisù. Una ricerca della società Dante Alighieri dimostra che è tra le prime 10 parole italiane più conosciute all'estero e quasi tutte le altre riguardano sempre il cibo: pizza, cappuccino, spaghetti, espresso, mozzarella, bravo, allegro, lasagne e risotto. Un sondaggio di Assolatto su internet ha scoperto che i suoi maggiori estimatori mondiali sono i cinesi. Sui siti di lingua cinese ci sono infatti oltre 14 milioni di citazioni del dolce italiano. Il tiramisù quindi è oggi un cibo italiano noto in tutto il mondo. Ma quando è nato? La prima notizia di un dolce detto tiramisù la si trova in un articolo di Beppe Mafioli, accademico della cucina, sulla rivista Vin Veneto del 1981. Si racconta che al ristorante Le Beccherie di Treviso servono un dolce al cucchiaio a base di mascarpone e uova chiamato tiramisù, in dialetto trevigiano, inventato dal cuoco Lolli Linguanotto. Treviso, vicino a Venezia, città turistica per eccellenza, e già nel 1982 la voce tiramisù è registrata in inglese dall'Oxford Dictionary e nel 1983 appare poi in un articolo del New York Times e nello stesso anno è recepita dallo Zingarelli. Per realizzare il tiramisù del ristorante Alle Beccherie, montate a spuma 12 tuorli d'uova con mezzo chilo di zucchero e incorporatevi 1 chilogrammo di mascarpone, ottenendo così una crema morbida. Bagnate 30 savoiardi con caffè senza inzupparli troppo e posateli su un piatto. Spalmate sui savoiardi metà della crema e poi sovrapponete un altro strato di 30 savoiardi bagnati con il caffè. Spalmate poi con la rimanente crema di mascarpone. Cospargete il dolce con cacao setacciato e fate riposare in frigo. Questa è la ricetta originale, mentre oggigiorno, per sicurezza alimentare, i tuorli d'uovo dovrebbero essere acquistati già pastorizzati o andrebbero temperati, cioè montati con uno sciroppo caldo, ottenuto portando lo zucchero con qualche cucchiaio d'acqua a 121 gradi. Fino a pochi anni fa, quindi, la vulcata popolare attribuiva al ristorante Le Beccherie la paternità del dolce. Ma in realtà chi l'ha inventato? Se avrete pazienza di seguirmi nelle prossime puntate, si svelerò invece che la paternità del dolce è un orgoglio della nostra regione. Parleremo del tiramisù di Tolmezzo e di Pieris, ma nel frattempo gustatevi questo cremoso dolce trevigiano, anche se non è stato il primo tiramisù. Buon appetito! E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Mercato attivo, con prezzi in aumento venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 26,80 e 27 euro al quintale IVA esclusa. Quello con 25 di umidità viene quotato da essiccatoi di zona a 22 euro il quintale. L'orzo, peso specifico 62,65, tra 26,10 e 26,50. Il frumento tra 29,60 e 30,10. E la soia tra 60,20 e 60,70. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 9,50 euro e la soia di 21,70 al quintale. Passando ai bovini da macello, è proseguito il buon andamento delle quotazioni, con le vacche fine carriera di prima qualità che vengono pagate a peso morto tra 2,70 e 3 euro il chilo, IVA esclusa, quelli di seconda tra 1,90 e 2,60. Mercato in movimento nel settore dei vitelli da ristallo, le quotazioni accertano che i brubelga maschi vengono pagati tra 6 e 6,50 euro il chilo, IVA compresa, i pezzati rossi tra 4,60 e 5 euro, i frisoni tra 1,70 e 2 euro, e i bruni tra 1,50 e 1,70. Nel comparto suinicolo si evidenza ancora un mercato stagnante e la tonzola di 30 kg vengono pagati franco partenza a 2,10 euro il chilo IVA esclusa, mentre i grassi da macello vengono quotati a 1,46 il chilo. Domanda confermata con quotazioni attive per il montaggio 90 giorni, che viene pagato tra 6,30 euro il chilo IVA esclusa, quello di 4-6 mesi tra 7,20 e 7,50, lo stagionato di 12-15 mesi tra 7,90 e 8,30. Confermato pure dalla commissione camerale anche il prezzo del latte crudo di vacca franco stalla di origine del Friuli Venezia Giulia, che lo ha quotato tra 37,50 e 38,50 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Mercato in ribasso invece nel settore dei foraggi, dove il fieno Maggengo di pianura viene quotato da 10,50 a 11 euro il quintale IVA esclusa, l'erba medica di prima qualità tra 17 e 17,50, mentre la quotazione della paglia di cereali pressata di stagione oscilla tra 9 e 9,50 euro il quintale. Con il previsore dell'Osmer, Livio Stefanuto, diamo un'occhiata al meteo della settimana entrante, più un breve contributo di climatologia locale. Il mese di ottobre è stato più freddo della norma di circa un grado e il mare di mezzo grado. Per il resto la pluviosità è stata in genere molto inferiore alla norma, con le ultime due decadi decisamente secche e ponsoleggiate. Con l'inizio di novembre si è assistito ad una svolta decisa del tempo con il passaggio di due intensi fronti atlantici, il primo la sera dell'1 e un altro tra il 3 e il 4. In totale sono caduti sui monti tra i 100 e i 300 mm, con i valori più elevati sulle prealpi, mentre in Carnia e Trevisiano tra i 100 e i 200, però con Tolmezzo ben 260 mm. Sulla pianura pordenonese sono caduti tra i 100 e i 160 mm, su quello udinese tra 60 e 130, sull'Isontino 50-60, sulla costa 30-40, ma a Trieste solo 10-20 mm. La sera del 3 si è avuta acqua alta sulla costa. In entrambe le perturbazioni si è avuto vento forte da sud sulla costa, con raffiche fino a 80 km all'ora. Ben più rilevante il vento in quota nella notte tra il 3 e il 4, con venti molto forti, ben superiori ai 100 km all'ora e raffiche fino a 140, tra i 1500 e i 2000 metri. Ha nevicato in genere solo ad alta quota. Dal 5 in poi il tempo è migliorato decisamente. In questi giorni, infatti, un anticiclone si è espanso progressivamente sul continente europeo e ha fatto fluire correnti nord-orientali al suolo sulla regione. Una depressione centrata sulle coste africane richiama aria umida da sud sul nord Italia. Lunedì convergeranno sulla regione correnti umide meridionali in quota e una massa d'aria fredda proveniente dal nord Europa. Probabilmente avremo cielo nuvoloso, con precipitazioni sparse, in genere moderate, più probabili di notte e in mattinata. Quota neve inizialmente sui 2000 metri, poi in calo fino a 1400 metri sulle prealpi, 1000 sulle Alpi, forse fino a fondovalle nel Tarvisiano. Soffierà vento dal nord-est moderato in pianura in quota. Buona sostenuta sulla costa, anche forte a Trieste dalla sera. Da martedì prevarranno correnti più secche e probabilmente avremo belle giornate con cielo sereno, poco nuvoloso per qualche velatura fino al prossimo fine settimana. Sulla costa continuerà a soffiare buona, in genere sostenuta a tratti moderata. Le temperature minime in pianura saranno tra i 2 e i 6 gradi, le massime raggiungeranno i 16-18 gradi. Come sempre vi consigliamo di seguire gli aggiornamenti che verranno emessi nei prossimi giorni. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano dedicato al tempo, al calendario della settimana. Quanche i corvassa van in grump, ploia, tanca in vol, ovvero quando i corvi si radunano a frotte, pioggia quanta se ne vuole.